Tempo di Sport con Carlo Genta. Buonasera a tutti, Giorgio De Luca in redazione, Paolo Corleoni in regia. Ci avete interrotti, a me e Andrea Zorzi che saluto. Ciao Andrea. Ciao a tutti, ben ritrovati e ben ritrovato Carlo. Ci hanno interrotti i nostri ascoltatori, naturalmente sto scherzando perché li aspetto. 800240024 è il numero verde, mentre io e Andrea Zorzi ci interrogavamo su è bella la nuova Ferrari o no, ma come si fa a dire se è bella o no? E allora si guardava la foto e non ho idea, cioè credo sia veloce, credo possa, però non ho idea quale possa essere il criterio estetico in cui si può definire bella o più o meno bella una Formula 1. Voi cosa dite? 800240024, naturalmente ne parleremo, abbiamo anche una scheda molto particolare in proposito che Cristiano Bartelloni ci ha fatto pervenire. Avremo più tardi Mario Poltroniere, avremo le voci di ieri e avremo il giudizio su questa Ferrari, bella o brutta? Allora, non so, ma... finché si parla veloce o meno siamo e di ci casa. Sono i cronometri, ok. Bella e brutta, bella, non, veramente non ho la più pallida idea in base a cosa si possa definire bella o brutta una macchina di Formula 1. Cioè ti manca il parametro? Assolutamente. Benissimo. Io vado con la cronaca subito che ci porta in Serie B per risultati finali. Empoli-Varese 1-1 giocata ieri, Albirone-Fe-Ascoli 1-1, Crotone-Torino 1-1, Novara-Cittadella 2-2, Padova-Modena 1-1, Pescara-Triestina 0-0. Avrà vinto qualcuno in questa giornata? Sì, Piacenza batte Regina 3-2, Portogruaro che vince a Sassuolo 1-0 e Siena che asfalta il Livorno 4-0, Grosseto che vince a Vicenza 1-0 e il Siena vola 47, Novara 45, Atalanta 44, Varese 40, Livorno Torino 35, Padova Regina 34, Pescara 32 e via tutte le altre. Cronaca che ci porta alla mattina del tennis con Kim Clijsters che ha vinto un Open diverso da quelli che aveva vinto fino ad ora, cioè fino adesso aveva vinto solo negli Stati Uniti, stavolta ha vinto in Australia. È una prima volta anche per l'altra finalista, prima volta di una cinese in finale di un Open. Lina si arrende in 3 set. Cronaca che ci porta allo sci con un inatteso e splendido secondo posto nella libera maschile, secondo posto italiano di Paris, di Dominique Paris, a Chamonix appunto, ultima gara prima dei mondiali e quindi ci andiamo con un po' di fiducia, ha vinto Kusch. E cronaca ci porta infine sul ghiaccio per l'argento che è stato vinto ora di Carolina Kostner, mentre l'oro è andata alla Svizzera Meyer, si pattinava a Berna, pattinaggio di figura, quindi in rimonta Carolina Kostner è riuscita a salire sul secondo gradino del podio. Sei contento? Sì, inaspettato l'argento, ieri era la sesta, sì. Si pensava diciamo all'ennesimo momento in cui Carolina non riusciva a mantenere le promesse, però questo recupero particolarmente inaspettato dice anche quanto sia brava, quante potenzialità abbia lei. E quanto faccia fatica a gestire la pressione. Quando ce l'ha addosso scivola giù, quando non ce l'ha addosso, come in questo caso era sesta, riesce a risalire perché ha talento. E ormai fin troppe volte se ne è parlato da Torino 2006, con lei come portabandiera, che ha fatto molta fatica. La pressione è ovviamente un tema ricorrente in molti sport in modo particolare, poi ci sono alcune delle discipline, io penso alla ginnastica ritmica, al pattinaggio, in cui in realtà l'obiettivo è non sbagliare. E quindi la durata dell'esercizio viene vissuta con molta preoccupazione, perché sai che sei sempre lì, in realtà più che fare bene puoi solo commettere tanti errori. Certo. Ed è... Però vediamo. Vediamo anche come andrà la domenica del calcio. È stata la settimana dei sogni, no? Sogni di mercato, sogni di scudetto alimentati da quelli che arrivano. Oggi è stato il giorno, per quanto riguarda l'Inter, di Pazzini, che ha detto mi volevano altri, come la Juventus, ma non lo so, io ho letto un sacco di cose, però di fatto l'Inter in 2 giorni mi ha preso. È stata la giornata della difesa, molto interessante, se vogliamo, il momento della Juventus, difesa di Andrea Agnelli in conferenza stampa congiunta con Marotta, che si è difeso con grande grinta, poi vi facciamo sentire anche quello che ha detto. Questa è una stagione di sofferenza, il bilancio, l'eredità del passato, quindi quella montagna di debiti, mancata qualificazione alla Champions League, le difficoltà della stagione passata ci hanno dato questa stagione di sofferenza, lo sapevamo già. Se l'anno prossimo di questi tempi saremo nella stessa condizione, allora lì sarà un problema, ha detto Agnelli, promettendo che la prossima estate sarà quella della definitiva chiusura di questa rincorsa della Juventus. Intanto ci sono un sacco di nuovi acquisti che sono lì che stanno per scendere in campo. Particolarmente attenti i tifosi dell'Inter, io immagino, per capire se Pazzini domani debutterà, è stato convocato, debutterà con la maglia dell'Inter, convocato anche Karja al volo. In campo al volo in Coppa Italia, come sapete, anche gli olandesi del Milan. Giovanni Capuano, buonasera. Ciao Carlo, buonasera. Allora, i nuovi giocano? Allora, i nuovi sicuramente giocheranno. Difficile decrittare che cosa succede in queste ore in casa Inter, anche perché in realtà la presentazione di Pazzini ha di fatto cancellato la conferenza stampa di Leonardo vigilia del Palermo. L'indicazione è che sono tutti convocati, c'è però fra i convocati anche Milito, così come torna tra i 20 convocati Giulio Cesar. Allora, provando a mettere un attimino di ordine in quelle che dovrebbero essere le idee di Leonardo, bisogna dire che certamente Pazzini e Milito si divideranno la partita, nessuno dei due ha i 90 minuti da decidere chi partirà. Per quanto riguarda Karja, conoscendo un po' invece il modo in cui Leonardo tratta gli equilibri di spogliatoio, difficile parta dal primo, più facile è che sia Pandev ad arretrare nella posizione di trequartista. Inter, che ha il problema dei tre squalificati che sono Kivu, Cordova e Stankovic, per quanto riguarda le scelte in difesa è tutto molto semplice, perché ci sarà Ranocchia con Lucio centrale e ci sarà Santon a sinistra. Quanto riguarda invece gli olandesi del Milan, stasera Catania giocano? Sì, gli olandesi del Milan giocano certamente, Manuelson e Van Bommel, è quasi certo, manca una mezz'oretta la riunione tecnica di Allegri, però diciamo che si può dare per scontata l'assenza di Pato, perché la scelta è per Cassano con Ibrahimovic, mentre nelle ultime ore, nel ritiro del Milan, pare aver preso corpo l'ipotesi di far giocare Robinho titolare dal primo minuto trequartista e non Merkel o Seedorf, sembrava un ballottaggio fra Merkel e Seedorf, però si saprà fra una mezz'oretta. Cassano confermato? Cassano confermato, sì. Cassano confermatissimo. Giocare. Del resto lo vuole Ibrahimovic. E quindi, se lo dice il capo, è il giocatore più pesante nello spogliatoio del Milan. Cosa ridi, Andrea? Il capo Ibra. È il capo Ibra. Se lo vuole il capo, gioca. Ho sentito che Gagliani gli ho chiesto se potevo prenderli. Lui ha detto ok. Poi ti dico cosa ho visto oggi in televisione riguardo alle promesse fatte e non mantenute, una delle quali riguarda anche Ibrahimovic. Dunque, no, io volevo chiudere il discorso con Giovanni invece. Juventus, oggi è giorno della difesa per la Juventus a tutto campo, prima del Neri e poi Agnelli, però sul campo domani sono problemi per del Neri. Sono problemi molto gravi, perché la Juventus ha perso in un colpo solo tra ieri e oggi 4 giocatori, di fatto è praticamente impossibile l'utilizzo domani di Amauri, Pepe, Motta e di Iaquinta, il che crea dei grossissimi problemi soprattutto nel settore offensivo, dove c'è di fatto disponibile solo Del Piero e a questo punto dovrebbe giocare come a seconda punta Martinez. A centrocampo rientra dopo la squalifica Felipe Melo, in mezzo con Aquilani, Krasic a destra, Marchisio a sinistra, dietro laterale destro al posto di Motta ci sarà Sorensen, in porta torna dopo la Coppa Italia Buffon. Ti segnalo che al di là del mercato incide molto la Coppa Italia nelle scelte dei tecnici di queste ore, ad esempio Mazzari del Napoli ha annunciato un ampio turnover dopo le fatiche dei supplementari contro l'Inter e sicuramente giocheranno Santa Croce in difesa al posto di Aronica, Iebda a centrocampo al posto di Pazienza. Qualche problema ce l'ha anche la Roma, non convocato Rise che ha accusato un affaticamento, ha recuperato Menes ma dovrebbe partire dalla panchina, possibile Totti dal primo minuto, ma anche Ranieri ha fatto capire che ci sarà da distribuire un po' le energie dopo la faticata, certo, di Torino. Grazie Giovanni, grazie. Grazie a te. Buon lavoro, ci fermiamo per il traffico, poi abbiamo già due ascoltatori, Michele Provincia di Avellino e Piero da Milano, 800240024, e poi sono curioso di sapere cosa ci dice Andrea Zozzi su Ibrahimovic. Io ho un messaggio fantastico da girarti per capire come si valuta esteticamente una Formula 1. Adesso vale anche per te. Vale anche per me. Vale anche per te. Beh, te lo leggo subito, poi mi dici di Ibrahimovic e poi parliamo con Piero. Inginocchiatevi davanti al musetto, abbassatevi e con gli occhi guardate il profilo dell'ala posteriore. Io direi meravigliosa, scrive un ascoltatore. Della Ferrari. O sì, delle macchine di Formula 1, immagino. Sì. No, beh, non c'è dubbio che c'è uno stile curato. Continuo a pensare che mi mancano un po' la capacità di definire quale sia il parametro estetico. In ogni caso, non ho cose da dire su Ibrahimovic, ma oggi Ibrahimovic è finito all'interno di un piccolo racconto in televisione in cui si parlava di promesse non mantenute. Sì. Quella che lo ricordava era Berlusconi che diceva: no, io credo che Ibrahimovic, pur essendo forte, non abbia carattere per adattarsi allo spogliatoio del Milan. C'era la data, due giorni dopo Ibrahimovic al Milan. Milan. E gli altri erano Moratti, che dice qualche anno fa: no, no, continueremo così come siamo, con Zaccheroni. Due giorni dopo Zaccheroni non c'era. Guarda cosa qua io. Ho un collage di tutto sport, no? Dove allora, in un caso, Dzeko, patto segreto, Juve e Wolfsburg hanno già trovato un'intesa. E sotto c'è la foto di Mancini con Dzeko che fa vedere la maglia del Manchester City. Poi Cassano è Juve, pronto l'accordo con la Samp, foto di Galliani, Cassano, maglia Milan. Adebayor, Juve arriva a gennaio, c'è accordo con il City, sotto ovviamente Valdano e Adebayor, maglia Real. Pazzini alla Juve, tra virgolette, Pazzini che saluta con lo stemma dell'Inter dietro. Questo è un po' lo stile. Bello, no? 800 24 00 24. Piero, buongiorno. Buongiorno, buonasera. Dunque, buongiorno, buonasera, dica. Punto di vista rispetto probabilmente la parola estetica non è adatta nel valutare un oggetto destinato a una prestazione. Questo vale per uno sci, vale per lo scafo della barcavela. È bello se è funzionale, è bello se la bellezza arriverà dopo, arriverà dal gesto che lo sportivo, il pilota in questo caso, può fare con la traiettoria, come questo vale, vuol dire la moto di Valentino Rossi non è bella esteticamente, perché è impataccata, piena di indispensabili sponsor. È bella in quanto un mezzo pensato per quell'uso fino all'ultima vite, e diventa bello quando Valentino la porta con una maestria impagabile nelle traiettorie. Il suo intervento è molto bello pure, almeno a me è piaciuto, e qui è il senso di tutto. Assolutamente. Ti piace una cosa o no? Allora, quando si parla di estetica c'è qualcosa che ha a che fare con lo stimolare positivamente i sensi, qualcosa che è bello. Le vecchie macchine tutte bombate, come sono piacevoli, le guardi, sono belle da toccare. La Formula 1 è bella perché va veloce, ma non ha a che fare col senso estetico. Io non provo. È vero che le parti laterali arrotondate possono essere carine, ma non c'è nulla di bello, secondo me. Poi va veloce, come con la moto di Valentino Rossi. Non lo so. Secondo me ci sono delle macchine di Formula 1 che sono esteticamente belle, anche nel passato. Io ma ricordo... di Formula 1 belle no. Bah, Andrea, quelle vecchie, ma no, vecchie, anche recenti. Cioè, tu ne vedi due a confronto, dici questa mi piace. No, per esempio, la Red Bull dell'anno scorso esteticamente non mi faceva impazzire, ce n'erano altre più belle. Poi vuoi la livrea, vuoi il colore. Per esempio, le McLaren a me piacciono sempre. Però hai presente le macchine nuvolari? Sì, quelle rotture grandi, sottili, rispetto ai siluri. Lì riconosco un senso estetico che a me piace di più. Queste sono spezzettate, quello che vuoi. A me piace molto di più quel tipo di macchina, e quelli di adesso sono velocissime, ma non belle. Tanto adesso chiediamo al professore tra poco, però prima di parlare con il professore Mario Poltronieri, vi faccio sentire questa scheda che ha a che fare un po' con i discorsi che stiamo facendo, di Cristiano Bartelloni. Sentite. Non per entrare nel merito del motore, ma ogni motore ha una musica, e io la so. Così canta Francesco De Gregori nella canzone Pilota di guerra. Ogni motore ha il suo suono, ma ce ne sono due che per storia si somigliano. Enzo Ferrari era un giovane pilota che correva per l'Alfa Romeo. Aveva 25 anni e le idee ben chiare. Il 17 giugno 1923 vinse in coppia con Giulio Ramponi il primo circuito del Savio a Ravenna. Sulle tribune vi erano come ospiti d'onore il conte Enrico Baracca e sua moglie, la contessa Paolina. Erano i genitori di Francesco Baracca, eroe dell'aviazione italica della Prima Guerra Mondiale, capace di vincere ben 34 duelli aerei prima di essere abbattuto, nel giugno del 1918, da un biplano austriaco sopra i cieli di Nervesa della Battaglia, in provincia di Treviso. La contessa Paolina intravide negli occhi di quel giovane pilota di auto la stessa determinazione che aveva conosciuto nel figlio, e gli volle fare un dono. L'emblema che Francesco aveva fatto dipingere sul suo biplano, Newport 11, un cavallino rampante. Metta sulla sua macchina il cavallino, le porterà fortuna. E così fu. Ferrari ne fece il proprio marchio da subito, anche se ci vollero altri 9 anni per vedere lo stemma fare capolino su un Alfa Romeo, e ben 25 perché venisse applicato su una vettura Ferrari. Allora, professor Poltronieri, buonasera. Buonasera. Hai sentito questa scheda? Allora, magnifico, bellissimo. Beh, poi per me che sono molto giovane queste cose sono inedite. Le sento particolarmente, anche perché poi sono un appassionato di aeroplani, quindi ti puoi immaginare il discorso di Baracca, della guerra, eccetera, eccetera. Insomma, ma andiamo su quello che mi pare stato un po' il tema diciamo della discussione, cioè se la macchina è bella o brutta. E qui ci rifiutiamo. Io ho un ascoltatore che scrive, Mario, un ascoltatore che se la prende con Zorro. Zorro, le Formula 1 sono sculture in movimento. Gigi da Roma. Beh, Dio, Boccioni forse l'avrebbe vista così, però ti dico, la tutta più bella sull'argomento, poi è stata più volte ripetuta, ma che è di Ferrari, una vettura è bella se vince. Questa era la tesi di Ferrari, ed effettivamente tu sfondi una porta aperta, come si dice, dicendo a me che non ti piacciono le vetture di questo tipo. Per forza, io infatti le chiamo attrezzi per correre, per vincere, non sono automobili, perché l'eccesso di aerodinamica che c'è stato messo ha fatto praticamente un aeroplano rovesciato, non è. Però sai, diciamo che il regolamento di quest'anno comunque, che è sensibilmente cambiato, un piccolo sforzo non sull'aspetto estetico ma verso la sicurezza e verso la spettacolarità l'ha fatto, sì. E questo direi è molto importante. Non ti sto a elencare tutto perché sennò diventeremo un discorso abbastanza lungo, ma diciamo che nella presentazione di ieri, dove tra l'altro è stata presentata questa macchina con il tricolore sulla vettura posteriore e si è data la sigla di F150 per ricordare appunto l'unità d'Italia. Compleanno, certo. Diciamo che la presenza di Elkann e di Marchionne, tra l'altro, direi è stata importante, perché quando Montezemolo è uscito dalla Ferrari non credo che fossero così diciamo sintonizzati. Invece con questa presenza ovviamente la Fiat dimostra di voler appoggiare in tutto per tutto, ma la Ferrari, che tra l'altro sta andando benissimo anche dal punto di vista diciamo commerciale. Dal punto di vista regolamentare, come dico, sono state fatte alcune modifiche che sono sia in funzione dello spettacolo, che spesso manca, sia della sicurezza. Per quello che riguarda il sorpasso, teniamo presente che è stato eliminato quel condotto cosiddetto F-duct che portava aria sull'alettone posteriore, più le pinne, più le doppie uscite di flusso sulla parte bassa della vettura, tutti elementi che rendevano difficile il sorpasso alla vettura che seguiva. Che invece, eliminata tutta questa roba, è stata consentita la modifica di 4 gradi, se non sbaglio, del flap dell'alettone posteriore. Questo vuol dire scaricare un po' la vettura, quindi avere la possibilità di una maggior punta di velocità. A questo si aggiunge la reintroduzione del KERS, cioè del recuperatore di energia cinetica, fatto più piccolo, con batterie più efficienti, eccetera, che consente di dare uno spunto di potenza, com'era, visto parlare di aeroplani, l'iniettore di acqua e metanolo quando si voleva dare un po' più di potenza ai motori e pistoni dell'ultima guerra. Sì, insomma, stanno facendo tutto il possibile per farle per rendere agevole qualche per rendere insomma minimamente sperabile qualche sorpasso. Ma sicuramente. No, ma tu devi vedere, Mario, perché non sei qui e gli ascoltatori non possono vedere le facce che fa Andrea Zozzi guardando le fotografie. Ascolta, senti questo messaggio. Come si fa a dire che gli alettoni, gli scarichi saldati da artigiani con le loro mani, con le loro manine sante, elucidati con l'unto di gombio, non sono belli? Come si fa, Zorro? Come si fa? No, tu guardavi l'anteriore, non male. No, l'anteriore non sì. Ti piace. L'anteriore non male. Lo diceva Andrea Zorro. Da davanti, inginocchiato da davanti, visto che la foto... Non è male. A parte un po' di tiranti che disturbano questa prospettiva, la linea si sporca un pochettino. Da dietro invece, col tricolore, che va bene perché ci ricorda i 150 anni dell'unità, però è un po' meno affascinante da dietro della Ferrari. Non ti piace il sedere, insomma? No, non molto. Non ti piace il sedere della Ferrari. Senti, Mario, ma vince questa macchina o no? C'è chi dice anche che questa macchina l'hanno fatta per le fotografie, che poi quella che andrà in pista, anche per ingannare un po' la concorrenza, sarà sostanzialmente diversa. Questo succede tutti gli anni, è successo soprattutto quando Ross Brawn ha tirato fuori il diffusore, eccetera eccetera, quello senza dubbio, ma lo dicono anche esplicitamente. Questa è una presentazione che serve per gli sponsor, che serve per le primissime prove. Ha finito da poco, credo, le prove nella seconda giornata lì a Fiorano, Felipe Massa, ma c'era tra l'altro la pista bagnata, non ha detto molto, però questo fatto della pista e del bagnato mi offre la possibilità di ricordare una cosa molto importante nella Formula 1 di quest'anno, cioè il ritorno della Pirelli. Certo. Pirelli, che è stata una marca importantissima nel corso della storia, è un prodotto italiano molto importante fin dal tempo che dalla Pechino Parigi, per arrivare a tutte le gare di Formula 1, quelle vinte dall'Alfa Romeo, dalla Ferrari, eccetera, eccetera. Diciamo, questo ritorno da Pirelli come fornitore unico della Formula 1 al posto della ritirata Bridgestone è importantissimo, perché si tratterà di adeguare le macchine a queste gomme. Sì. Fino adesso sono state fatte poche prove, quindi molte variazioni alla vettura potranno essere proprio anche in funzionali alle nuove gomme. Anche questi giri di pista Fiorano di oggi, se non ricordo male, sono per gli sponsor. Dimmi, Andrea. Ringrazio personalmente Poltronieri, perché l'idea che il KERS possa essere ricordato come acqua e metanolo mi piace questa idea. Quando lo nomineranno come l'innovazione tecnologica più recente, penserò acqua e metanolo insieme, così si va più veloce. No, ma lo dico come incremento di potenza. Sì, sì. È ovvio che in questo caso, d'altra parte, io sono sempre stato un appassionato di questi apparecchi. Da bambino ho studiato un cemento per Marte, quindi vedi che cerco sempre di guardare un po' più avanti. Mario, ti ringrazio, avremo tanto modo e tanto tempo per chiacchierare di fronte a questa Ferrari, bello brutta che sia, speriamo tutti vincente, così come è. Loro si sono impegnati al massimo, hanno presentato, sono i primi a presentare la macchina, perché giustamente il direttore Domenicali ha detto che la prima cosa che cercheremo sarà l'affidabilità. Per quello ho citato il discorso gomme, perché trovare l'affidabilità e contemporaneamente riuscire a mettere in equilibrio la macchina con una nuova marca di gomme che in questo periodo non ha una particolare esperienza specifica sulla Formula 1, sarà un lavoro non da poco. Tanto è vero che la federazione ha anche stabilito una differenza di pesi tra l'anteriore e posteriore, sì, che può variare di pochissimo. Questo per stabilizzare un po', appunto, le possibilità dei tecnici nel cercare. Devono camminare con le scarpe nuove, quindi le signorine dovranno adeguarsi ai nuovi tacchi, alle nuove calzature. Perdona Mario, una cosa velocissima: l'in bocca al lupo vale anche nella Formula 1? Ma insomma, sarebbe meglio non farlo, ecco, diciamo. Ok, quindi neanche in bocca al lupo. No, neanche in bocca al lupo. Niente in bocca al lupo, no, adesso vediamo. Come dico, non si può mai dire che vinceremo di sicuro. Questo, l'anno scorso abbiamo sofferto tutti perché, secondo me, hanno spinto troppo all'ultimo momento, dicendo adesso ormai la situazione è così, vinciamo. No, basta un piccolo errore di strategia, che tra l'altro era giustificabile in quel caso lì, e per cancellarti tutto il risultato della stagione. Tutto il risultato della stagione. Le cose come le prendono gli inglesi, con assoluta tranquillità. Si corre, chi vince è bravo, il problema è che quando hai messo tutti quei quattrini è un po' difficile anche stare tranquilli. Mi devo fermare un attimo per questioni tecniche, ovviamente, solita pausa. Io ringrazio Mario Poltronieri, Andrea Zosi sta qui con me, 800 24 00 24, un messaggio in confronto alle Formula 1. Anni 60, queste sembrano cassapanche. Questo scrive un ascoltatore. C'è anche un altro che scrive: è proprio vero che gli extracomunitari fanno i lavori che gli italiani non vogliono più fare, vanno anche a votare alle primarie del PD. Non credo c'entri molto con questi discorsi, no? No. Ci fermiamo. 800 24 00 24, numero verde per intervenire. Non mi guardare così, Una volta che scrive una signora, indirizzata a te. Orca. Cinzia da Venezia, vi ringrazio perché riuscite a parlare di ogni argomento in modo interessante e non banale. Complimenti e un saluto a Zorzi, mica a me. Grazie mille. Ce ne sono anche altri messaggi, però belli a prescindere la Formula 1. Bella comunque a prescindere è la Ferrari, e di fronte a questo ci arrendiamo. Ci inchiniamo davanti al frattempo, musetto. Andrea Zorzi mi racconta sempre un sacco di storie, tipo quella della. Questa è di History Channel, qualche giorno fa. McLaren. Perché la Mercedes è freccia d'argento? Perché l'argento è il colore della Mercedes. Tra l'altro, bellissimo. Negli anni 30, Hitler investì un sacco di soldi in Mercedes e in quella che era l'Audi per alzare il valore e l'importanza della macchina tedesca. Si presentarono quindi la Mercedes con la macchina che pesava un paio di chili in più rispetto al limite massimo, non c'era tempo di fare niente altro, ha detto togliamo la vernice bianca. Con il flessibile hanno tolto la vernice di 2 chili ed è rimasto il colore alluminio. È piaciuto così tanto che da allora freccia d'argento. In effetti è il colore più bello che c'è per una Formula 1. Meraviglioso. Gianluca Di Marzi, buon pomeriggio. Ciao, buongiorno a tutti, ciao. La nuova Ferrari ti piace o no? Mi piace, moltissimo, anche se in questo periodo c'è il mercato che mi esce dalle orecchie, quindi... quando finisce il mercato lunedì. Gennaio? Finisce lunedì alle 19, per fortuna. Crisi d'astinenza dopo. Non posso più. Invece di sognarmi mia moglie, mi sogno i trasferimenti, i crasi, tutti i giocatori qua. Ce la possiamo fare, Gianluca? Sì. Sì, no, ce la facciamo, assolutamente sì. Anzi, poi devo dire che dà sempre un'adrenalina comunque la notizia, cercare di essere magari i primi, i secondi, i terzi a darla, ma comunque ecco, l'adrenalina è riuscire a scoprire anche trattative segrete che fanno i presidenti e i direttori sportivi, insomma è un qualcosa che mi emoziona ancora moltissimo, quindi spero che continui a emozionarmi ancora tanto. Sì, emoziona un sacco anche gli ascoltatori. Avrai sentito cosa ha detto oggi Andrea Agnelli, una di queste cose? Sì. Abbiamo letto tante ipotesi, alcune più affascinanti, altre meno affascinanti, però mi ritrovo anche a leggere sui giornali messaggi del tipo: Lippi e Spalletti arrivano alla Juventus, io sono qui tranquillo davanti a voi a dirvi che questa è chiaramente una minchiata. E quindi sarebbe anche il caso di evitare di spingersi in ordini di fantasie di questo tipo. Quindi Spalletti, Lippi una minchiata, ha detto lui, ci arrendiamo. Sì, beh, chiaro, poi bisogna avere rispetto anche per chi ha scritto questa notizia, sì. Insomma, sono dei colleghi sempre molto, molto ben informati, quindi non mi permetterei mai di smentirli, però sicuramente merita rispetto anche l'attuale management della Juventus, insomma, Marotta, Paratici e Del Neri sono arrivati da poco, hanno fatto una vera e propria rivoluzione l'estate scorsa, non tutti gli acquisti che hanno fatto sono stati indovinati, ci mancherebbe altro, non avevano nemmeno a disposizione secondo me un budget particolarmente importante, perché sì, è vero, si è scritto e detto che sono stati spesi 100 milioni di euro, ma molti giocatori sono stati presi comunque a condizioni che solo in Italia si potevano fare, vedi prestiti con obblighi di riscatto, sono formule che per andare a prendere i veri fuori classe non si riescono a mettere in piedi, quindi si potevano fare soltanto determinati tipi di operazioni, alcune sono andate bene, altre male, ma credo che per giudicare pienamente il lavoro di Marotta, del suo nuovo staff, sia necessario aspettare ancora un po' di tempo. Tutto sommato la Juve ha gli stessi punti dell'Inter, sì. E c'era un gap all'inizio del campionato, direi tra le due squadre, un divario che era nettissimo, e invece adesso comunque almeno è stato colmato. 3 punti dalla Roma, è vero che è uscita dalla Coppa Italia e dall'Europa League, però sono due manifestazioni che evidentemente la Juve, vedendo anche le formazioni che ha schierato, certo, ha un po' snobbato. Ma sai, oggi fa impressione il fatto che si mettono lì un sabato pomeriggio prima della partita, Agnelli e Marotta, a giocare in difesa e a respingere e a sparare palloni in tribuna. L'anno prossimo saremo competitivi, quest'estate completeremo il disegno, adesso non abbiamo i soldi, questo è il senso, perché c'è un pregresso, l'anno scorso, la stagione disastrosa dell'anno scorso ci ha lasciato un sacco di debiti, comunque ci ha lasciato una voragine, e quest'anno non possiamo comprare, quindi accontentatevi così. Questo è il senso. L'importante è la chiarezza, cioè, sì, sì. Nel momento in cui si è chiari si dice ai propri tifosi di aspettare, di pazientare, perché ci vogliono ancora dei mesi per tornare la Juventus di una volta sul mercato. Io credo che il tifoso intelligente della Juventus sia intelligente, abbia buon senso, sappia capire ed apprezzare queste parole da parte di Andrea Agnelli, e saprà aspettare l'estate prossima, dove sicuramente la Juve tornerà ad essere protagonista. Peccato che un paio di giocatori, vedi Dzeko, vedi Pazzini, che sicuramente sarebbero stati bloccati per l'estate prossima, non potranno più arrivare, perché c'è chi evidentemente ha bruciato la concorrenza prima, certo, ed è riuscito a fare questo tipo di operazioni. Andrea, chi ha vinto secondo Di Marzio lo scudetto del mercato finora? Ma direi Adriano Galliani, perché comunque riuscire a non solo a prendere Cassano a condizioni vantaggiose, a liberarsi anche di un Ronaldinho che ormai era diventato un peso, soprattutto per Allegri, prendere due giocatori comunque di caratura internazionale come Van Bommel e Emanuelsson a condizioni incredibili, perché Van Bommel a zero con un contratto di 5 mesi ed Emanuelsson a 1,4 milioni, oggi non si compra nemmeno un giocatore di Serie C a queste cifre, e prendere comunque un ragazzo giovane, vero sconosciuto, ma perché non prendere anche giocatori sconosciuti invece che sempre soliti nomi? Quindi direi che il Milan ha completato l'organico, ha dato ad Allegri quei rinforzi che gli servivano per non puntare soltanto sempre sui soli, che poi anche il fatto di mantenere i giovani, di Strasser, di Merkel, cioè il Milan quest'anno secondo me ha indovinato proprio tutto, dall'allenatore a ogni tipo di strategia. Sì, c'è anche Giorgio De Luca della redazione, mi scrive che l'ha vinto Raiola, che fa il direttore sportivo del Milan. Ibra Emanuel se ne va, Bobben tutta roba sua, e quindi vabbè. Robinho, naturalmente Robinho. Senti Gianluca, ma Pazzini e Cassano che valgono insieme 15 milioni più Biabiani, eccetera, metti però 15 milioni. Il Tottenham che ne chiede 50 per Bale, Sanchez vale 30. Ma com'è sta storia? Cioè, la coppia migliore campionato italiano, Pazzini e Cassano, 15 milioni li prendi tutte e due. Dipende anche dalle situazioni che si vengono a creare poi durante il mercato. Non sempre il prezzo di cessione, di acquisto, rispecchia il reale valore del giocatore. Cassano probabilmente, se non mandava a quel paese Garrone e finiva il campionato alla Sampdoria, non sarebbe costato praticamente zero o 5 milioni della clausola, ma sarebbe costato magari 10. E Pazzini comunque alla fine è costato 20, sì. Perché comunque i 12 più 7 mi sembra una cifra comunque giusta per un attaccante italiano che insomma è ancora giovane, 84, però 20 milioni per Pazzini oggi in Italia mi sembra un buon prezzo. Ranocchia, perché solo Ranocchia è costato 21-22, sì. Quindi anche i prezzi comunque dei giocatori italiani stanno aumentando, quindi il mercato, se diventa ricco, se girano soldi, è importante anche per le nostre squadre, vuol dire che ce li hanno. Sì, ce li hanno, o quantomeno magari sperano di averli in futuro, insomma. Gianluca, ti lascio ai tuoi 1000 telefoni cellulari e ai vari strumenti dell'informazione e non possiamo... Più che altro all'aereo, perché parto per Napoli, ho fatto Padova Modena, che ogni tanto mi piace fare anche la Serie B, sì. E parto per Napoli, dove invece farò Napoli-Sampdoria domani. Che non è male. Volevi dire, non Andrea? È male per niente. No, ricordiamo che agli esperti di mercato capita di ricevere contemporaneamente messaggi di operazioni avvenute, cosa che fa un po' arrabbiare poi, perché questo stabilisce una priorità di interesse. Vero Gianluca? È vero Andrea, ma guarda che ultimamente sai cosa ho notato? Che quando sono in onda, anche non so, a Sky Sport 24 durante il pomeriggio, così trovo che molti operatori di mercato mi scrivono soltanto quando sono in onda, cioè magari le notizie non me le danno prima e me le posso verificare o preparare, me le danno mentre sono in onda, perché hanno proprio evidentemente il divertimento di vedere se ho il telefonino acceso e di sapere se dico quella cosa mentre me l'hanno scritta. È incredibile davvero, tutta la nostra solidarietà, mio caro Gianluca, un abbraccio. Grazie a voi, buon proseguimento. Ciao, buona serata. Grazie Gianluca Di Marzio, ci fermiamo per il traffico e poi torniamo qui a chiacchierare io, Andrea Zorzi, e i nostri ascoltatori. 800 24 00 24. Ma che hai chiamato il gioco del mercato? Oh, SimCity. Sim gioco. Ma secondo me è così, dai. Pazzesco, mi sa che dietro c'è un grande risico, in cui c'è le tessere, le mettono insieme, giocano, bleffano. Evidentemente è un gioco poi vero in questo caso, sì, perché sì. Si spostano soldi veri. Gioco a rialzo, c'è il procuratore che dice, che avverte il giornalista, guarda, c'è questa notizia, così il prezzo magari va lì, invece poi va là, il prezzo aumenta, eccetera eccetera. È vero, risico. Un multitasking, proprio mille finestre aperte, mille trattative. Stiamo aspettando di vederlo in edizione in scatola, gioco in scatola del calciomercato, potrebbe essere un'idea. Sì, penso di sì, ma in realtà è già così, sai. Sì, no, senti, sì, ho le voci della settimana certamente da sentire, poi volevo sentire anche Andrea Zozzi sulla questione Cassano, Garrone, eccetera, che è stata divertente. Però prima c'è Gian Battista, provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Complimenti per la trasmissione. Grazie. E volevo salutarvi tutti, perché ho sentito Andrea, grandissimo campione di pallavolo, è avuto il piacere e l'onore di averlo. Di averlo con me in pullman. Ospite del suo pullman, era l'autista della squadra di Milano. Ciao, sì. Andrea, ciao Andrea, come stai? Tutto bene? Tutto a posto. Poi adesso io sento sempre da Radio 24, perché è una bella radio, una buona radio, poi sentire parlare di Ferrari e poi sentendo parlare te, ho detto, è passato dalla pallavolo a pilotare la Ferrari, insomma. Ma mi sa che non ci sta, Sono entrato una volta al Motor Show, mi hanno fatto fare una foto, c'era un piccolo gioco in cui si entrava in una carlinga di una Formula 1, poi veniva una foto in cui sembrava che io guidassi. È stato un po' faticoso, perché oltre ad essere lungo, il mio 49 di piedi non va in fondo dove sono i pedali, non ci arrivo. Esatto, chissà che ti sei trovato magari un po' anche in imbarazzo, nel senso che non riuscendo a sederti bene spuntava tutto il busto. Ma Gian Battista, ma la Ferrari è bello o no? Ma guarda, la Ferrari è un mito, la Ferrari per la potessi. Io ho seguito la gazzetta, c'era sulla FF 250.000 euro, da 0 a 100 in 3 3 o 4 secondi, insomma è una macchina che mi sogno. E sì, tu sai che se per caso avessi avuto un pullman che andava ma meno male che non c'era, a 350 km all'ora io qualcuno con me veniva senz'altro. Grazie Giambattista. Un saluto, complimenti a tutti. Ciao. Io vi voglio far sentire invece, visto che siamo in argomento, noi stiamo chiacchierando a ruota libera su questa storia del tricolore. Ieri Montezemolo ha detto qualcosa su questo alettone tricolore, su questa Ferrari dedicata ai 150 anni dell'Italia. Sentiamolo. È un messaggio che viene dal mondo dello sport. Il mondo dello sport vive per vedere la bandiera italiana alzarsi su alto pennone dopo una gara, alle Olimpiadi, ai Mondiali, a qualunque gara sportiva internazionale. Vive nell'emozione di sentire l'inno, di sentire di aver fatto qualcosa per il proprio paese. Dal mondo dello sport, di cui la Ferrari è una importante rappresentante, viene un messaggio di orgoglio, di appartenenza in un anno importante come quello dell'unità e quindi anche di consapevolezza di contribuire a vedere sempre di più in alto quella bandiera. Lo dici? Dico che chi commenta in modo un po' evoluto parla della Ferrari come uno degli esempi straordinari di glocal, qualcosa che mette insieme la parte globale e anche quella locale. Effettivamente la Ferrari è conosciuta a livello mondiale, ma poi ha una sede in Italia italianissima, ed è vero che lo sport diventa un mezzo straordinario. Io da pallavolista, ma molto vicino allo sport giocato, penso che gli sport motoristici facciano parte dello sport, ma siano un settore completamente diverso. Ciò nonostante, mi rendo conto che il rosso della Ferrari è la prima cosa che viene in mente quando si parla di Italia in giro per il mondo. Dunque Andrea, volevo chiederti, l'ho annunciato prima, la storia di Garrone, perché in settimana tra le battute, le dichiarazioni più interessanti, più curiose, c'è stata quella di Cassano che appunto ha detto: se sapevo che di venire al Milan insultavo prima Garrone. Poi c'è stata la risposta di Garrone su Cassano prima di Sampdoria Milan di Coppa Italia, che è stata questa qui. Io sono persona educato, lui non è educato. Direi ineducato, sempre detto io, direi anche le recenti battute sue in televisione quando è stato presentato, che avrebbe detto, io non ho sentito, se avessi saputo che andavo al Milan avrei insultato molto prima il presidente Garrone, una cosa del genere non merita più alcuna considerazione e un minimo di sentimento, di considerazione. Come avevo forti sentimenti nei suoi riguardi, ho cercato dell'Italia, non esiste più. Non esiste più, trovo che Garrone abbia espresso alla perfezione quello che è anche il mio sentimento, dopodiché posso anche immaginare che Cassano, preso in mezzo alla conferenza stampa, abbia così quasi tentato di scherzarci un pochettino, ma non gli è riuscito molto bene, quindi no. Condivido ogni singola parola e anche il tono di Garrone, che sembra accorato ma anche molto deciso. Sì, sono però i tifosi da Sampdoria in questo momento dicono, l'anno scorso grandi sogni, Cassano, Pazzini, adesso via tutte e due, cosa ci resta? Garrone, a quanto mi dicono, sia uno che se volesse potrebbe gareggiare anche economicamente con i grandi presidenti dei club più blasonati, è uno che non ha problemi di questo tipo. È vero però che Genova, tra Sampdoria e Genova, ha sempre avuto dei periodi più o meno interessanti, ma che sono durati non troppo tempo, non è mai entrata in questa arena in cui per anni ha lottato con Juve, Inter, le grandi squadre. Io trovo che sia legittimo, trovo anche che sia legittimo per i tifosi essere un po' dispiaciuti. Questo non toglie nulla rispetto al comportamento ultra corretto e condivisibile di Garrone. Dopodiché, se lui decide che i prossimi anni la Sampdoria la vede un po' meno nei primi posti e fa un'operazione diversa, è una scelta che un presidente può fare. Certo. E quindi toccherà a lui eventualmente convincere i tifosi o relazionarsi con loro. Abbiamo 2 minuti e 2 ascoltatori, non so mica se ce la facciamo. Claudio da Roma, buonasera. Buonasera. Dica. Buonasera a tutti. Senta, io volevo sapere se a voi non sembra un po' strano questa omertà di notizie sulla cessione della Roma. Cioè è un argomento che viene quasi mai trattato, non si sa quasi nulla. Eppure sulla cessione della società, lei dice? Della società, sì. Cioè non se ne sa nulla, va avanti ormai da 6-7 mesi, credo che se fosse trattato di Juventus o va avanti anche da più tempo. Intanto in settimana abbiamo saputo che sono state delle manette per quelli che hanno cercato di prenderla prima, no? Come avrà saputo anche lei, di fatto è una vicenda molto ingarbugliata, ma notizie non trapelano, si sa che ci sono trattative, è misterioso il fatto che insomma sia lì in vendita da così tanto tempo e di acquirenti seri, no, poi non, poi, tra non ce ne ci sono, perché sembra che ci siano, però le notizie non cioè nessuno se ne interessa, questo mi sembra strano, anche perché in caso di acquisto da parte di magari una multinazionale straniera, sì, ci sarebbe anche uno sconvolgimento un po' dei poteri, no, del sì, calcio sì, italiano. Quindi mi sembra stranissimo, sì, nessuno non, non dimentichiamo che anche, che anche una società quotata in borsa, e dunque credo che ci siano dei vincoli di riservatezza che siano piuttosto precisi. Non vabbè, ma non saprei, no? Credo di sì, credo poi che Roma sia una città difficilissima sotto l'aspetto sportivo e anche sotto l'aspetto organizzativo. Le notizie, io qualche volta sento la radio di Roma quando vado giù per questioni di lavoro, e devo dire che i loro toni sono sempre molto, molto diretti, più di quanto non avvenga a Milano. Si parla spesso di sensi, di ciò che si vuole fare, di ciò che succede, e poi non si arriva a nessuna conclusione. Allora, la settimana prossima comincia Sei Nazioni, non so se avrai tempo di venirci a trovare. Guarda, se non sarà sabato, sarà quello dopo, insomma. Ieri Petrucci, che ha partecipato alla conferenza stampa, ha detto: adesso le sconfitte onorevoli basta. Bastano. E da sabato prossimo lo vediamo insieme. Grazie Andrea. Ciao, alla a tutti. Prossima. Grazie Andrea Zorzi, Giorgio Luca in redazione, Paolo Corleone in regia. Ci sentiamo domani dalle 4:30 fino alle 7 per parlare di calcio.